sì, direttamente da qui. Rullino i tamburi, portatemi l'arcuri, ve la ridò a pezzetti, raga, statene sicuri. Signor Monti, sicuri che se non mi sbotta, le prescrivo due mandati per la bancarotta. Mi consenta, vedo la labiale che rallenta, le ho già detto di non governare a luce spenta. Fissi le pupille, sa facci dal suo attico, guarda in faccia tutti quelli che mandi sul lastrico. Signor Monti, sicuri che mi dimagrisce, quello che ha iniziato Silvio, lei lo finisce. Ergo, mi distrugga una regione a settimana, o se preferisce chiuda un'altra fabbrica nostrana. Alla sua età mi deve stare in forma, si ricordi tutti i giorni una bella riforma. Non prenda alla leggera queste mie indicazioni, e la sera dopo cena di un bel taglio alle pensioni. Con tutto sto lavoro non faccio più niente, mi ritrovo Mario Monti come paziente. Santo cielo, quel ragazzo non mi ascolta mai, dottor Deco dice lui, mai, non dormo mai. Con tutto sto lavoro non faccio più niente, mi ritrovo il presidente come paziente. Santo cielo, quel ragazzo non mi ascolta mai, dottor Deco dice come mai, non dormo mai. Assolva tre mafiosi, poi letto di corsa, lei non dorme per le oscillazioni della borsa. Stia tranquillo, la mattina la voglio più fresco. Starà mica tacchinandosi il cancelliere tedesco. Attento signor Monti, quella donna si ostina, in ogni caso lei farebbe pagare anche la vagina. Diventi allora capo della banca centrale, vedrà dopo lo spread, spread come le sale. Hey, signor Monti, ma questo cos'è? Si masturba coi trattati infami della BCE, che dicono che se uno Stato non può più pagare, lo potete occupare con l'esercito regolare. Birichino, non faccio il bambino, quando vi riunite tutti quanti su al Cremlino, con i vostri simboli esoterici massoni. Se lo lasci dire, sembrate 20 cazzoni. Con tutto sto lavoro non faccio più niente, mi ritrovo Mario Monti come paziente. Santo cielo, quel ragazzo non mi ascolta mai, dottor Deco dice lui, mai, non dormo mai. Con tutto sto lavoro non faccio più niente, mi ritrovo il presidente come paziente. Santo cielo, quel ragazzo non mi ascolta mai, dottor Deco dice lui, mai, non dormo mai. Allora, gli italiani li state schiacciando, e stranamente ancora non si stanno ribellando. Bellando. Come no? Sto pensando per riposare un po' di notte, le prescrivono sonora la morte di botte. Vedrà che sogni splendidi farà con la Roma, dall'erba che mi fumo mentre lei è in coma. Cos'è? Cosa ho detto? Non si sta sbagliando, no, non legata solo perché la sto visitando. Forza Monti, che stai migliorando, spero che non voglia dire che ti stai dopando. Ti fa male tutte le sere far festa, dalle mai tuoi soldi che a te ti danno alla testa. Dai, lo faccio per il bene dell'Italia, si intende, per la privacy Marietto tiriamo le tende. Cazzo vuoi di più? Il conto in banca non ti sfonda, il decone che ti entra in casa notte fonda. Come lo metti? Con tutto sto lavoro non faccio più niente, mi ritrovo Mario Monti come paziente. Santo cielo, quel ragazzo non mi ascolta mai, dottor Deco dice lui, mai, non dormo mai. Con tutto sto lavoro non faccio più niente, mi ritrovo il presidente come paziente. Santo cielo, quel ragazzo non mi ascolta mai, dottor Deco dice come mai, non dormo mai.